Euroreportage. Il nostro viaggio comincia da qui. Signal in Duna Park, 80.521 spettatori di media per ogni partita. Lo stadio del Borussia Dortmund, la favola che ha fatto innamorare l'Europa ed è volata fino a Wembley, finale di Champions League. Nel 2005 il Borussia Dortmund era tecnicamente fallito, 140 milioni di debiti, prospettive tecniche inesistenti, addirittura l'aiuto dei rivali del Bayern Monaco per coprire stipendi e insolvenze. Oggi il Borussia Dortmund è il simbolo del modello tedesco, che nel calcio tira come e più che nell'economia reale. Fattura 189 milioni di euro, è una fucina di campioni. In borsa ha triplicato il valore delle sue azioni e sfida e batte i colossi di Spagna e Inghilterra. La Bundesliga, il modello che oggi tutti inseguono, l'unico campionato tra quelli top in Europa a produrre utili e non perdite, con ricavi in crescita da 8 stagioni consecutive e ora oltre il muro dei 2 miliardi di euro. Eppure 10 anni fa la Germania era il fanalino di coda, dietro a Italia, Spagna, Inghilterra e Francia. Sì, anche l'Italia, che oggi arranca, era meglio della Bundesliga. I ruoli si sono invertiti, anche se la distanza potrebbe non essere siderale. Maurizio Beretta, presidente della Lega Calcio. Quanto è indietro l'Italia rispetto al modello tedesco di cui tanto si parla? Io credo che nel rapporto, diciamo, con la Germania evidentemente ci sono delle distanze da colmare, in particolare per la differenza strutturale del fatto che in Germania, così come in Spagna e Inghilterra, le società hanno da qualche anno stadi di nuova generazione di proprietà e gestiti direttamente. Per il resto penso che il calcio italiano, come dire, nel confronto non sfiguri, anche se lo immaginiamo rispetto ad altri settori. Il calcio italiano continua a essere un'industria che perde nel suo complesso, ha un saldo negativo. Perché? Ma perché a fronte di una ottima capacità di generare ricavi, in particolare dalla televisione, ha però, diciamo, dei punti di debolezza rispetto, ripeto, ad altri modelli calcistici di vertice, e in questo la vicenda stadi è assolutamente determinante. Ricordo che in Germania, in Inghilterra, in Spagna dagli stadi si incassa circa un terzo dei ricavi totali, in Italia siamo a meno della metà. Ed eccoli i parametri virtuosi che il calcio tedesco rispetta. Costo del lavoro al 37,8% rispetto ai ricavi, diritti TV che pesano per un quarto, una distribuzione equilibrata tra ricavi da stadio, marketing e sponsorizzazione. Il contrario di quanto avviene in Italia, dove i diritti TV fanno il 46% dei bilanci e i ricavi da stadio solo il 9%, mentre gli stipendi si mangiano oltre 1 miliardo di euro all'anno sui 2 miliardi e 146 milioni prodotti. La crisi però è generalizzata. Marco Fassone, direttore generale dell'Inter. Sicuramente l'Italia e la Spagna, in generale i paesi dell'area latina, hanno da un punto di vista economico più problemi degli altri paesi. Non credo che questa sia una grande consolazione il sapere che anche da altre parti ci sono problemi. Tutt'al più è un impulso a non prendere ulteriore distacco da Germania e Inghilterra, che stanno viaggiando certamente meglio di noi. Il rapporto UEFA, che ha analizzato i bilanci di oltre 700 società, racconta di un'industria che nel suo complesso fattura 13,2 miliardi di euro e ne spende 14,8. 1 miliardo 676 milioni di disavanzo ogni anno. Anche per questo è stato creato il Fair Play finanziario, sistema complesso di norme che porta alla sostenibilità economica del sistema calcio. Oggi, secondo l'UEFA, ci sarebbero ben 46 club che non avrebbero i parametri per iscriversi alle competizioni. Tra queste anche Inter, Paris Saint-Germain, Manchester City e altre big. Il Fair Play finanziario divide, anche se sono stati i club a volerlo. Ancora Fassone. Le norme del Fair Play finanziario sono l'unica strada, erano una strada obbligata per riportare a sostenibilità il calcio? Non so se fossero state obbligate, è un tema molto controverso, sia i pareri positivi che quelli negativi hanno le loro ragioni a supporto. Da un certo punto di vista, per noi per esempio, io ritengo che sia una strada positiva, perché costringe tutti i club lab, a cominciare a ragionare da aziende e quindi a strutturarsi con delle modalità un po' diverse da quelle che ci hanno caratterizzato. Quindi credo che in Italia, almeno per un breve periodo, sia un male necessario. Anche nel resto d'Europa è una ricetta che i tifosi devono imparare comunque ad apprezzare? Nel resto d'Europa non voglio mettere troppo il naso in casa d'altri, ma penso per esempio alla Germania, sono norme che tutto sommato non avevano bisogno di essere introdotte perché già loro le rispettano, hanno club anche i più grandi, anche i più importanti, che sono quasi da sempre in equilibrio economico, hanno proprio una filosofia imprenditoriale alle spalle che è un po' diversa dalla nostra, con i suoi limiti, i suoi pregi e i suoi difetti, ma per loro era certamente meno necessario che da noi. L'Unione Europea si è occupata del tema nel 2010 e ha condiviso lo spirito delle norme e la preoccupazione per la corsa senza freni del costo del calcio. Lorenzo Fontana e Antonio Panzeri sono due eurodeputati, firmatari 3 anni fa, di un'interrogazione di alcuni atti a Bruxelles e Strasburgo. Lorenzo Fontana. Sicuramente una regolamentazione da questo punto di vista era necessario, perché purtroppo sappiamo che spesso e volentieri è vero che è un mercato, è un'industria, è anche un'industria molto importante. Sappiamo che purtroppo in alcuni stati talvolta vi sono anche delle legislazioni che magari favorivano un po' troppo le squadre calcistiche e soprattutto le favorivano quando c'erano dei buchi di bilancio enormi, da un certo punto di vista anche per una concorrenza leale fra le varie società, che è giusto che ci sia. Penso che una regolamentazione da questo punto di vista era sicuramente necessaria. Antonio Panzeri. Io direi che proprio nell'ambito del dialogo permanente con la UEFA, le istituzioni europee, a partire dalla Commissione, devono contribuire a garantire che ogni misura rispetti le norme dell'Unione Europea relative al mercato unico e alla concorrenza. Questo lo trovo assolutamente essenziale per evitare, come è avvenuto nel recente passato, il fatto che ci siano delle squadre, dei club che siano oggettivamente in condizioni migliori rispetto agli altri proprio per una politica fiscale che viene praticata nei diversi paesi. La battaglia intorno al fair play finanziario è però durissima. Champions League is not never easy, and especially for Paris Saint-Germain. Nasser El Khelaifi è l'uomo più odiato in questo momento dai suoi colleghi presidenti. È il proprietario del Paris Saint-Germain, che ha investito quasi 300 milioni di euro sul mercato e si è inventato una partnership con l'ente del turismo del Qatar, in pratica con se stesso, per abbattere da oltre 100 a soli 5 milioni di euro il passivo di bilancio. Ernesto Paolillo è consulente dell'ECA, l'associazione dei club più importanti d'Europa. Beh, la posizione è assolutamente unica. Rummenigge su questo è stato estremamente chiaro. Noi dobbiamo come club pretendere che la norma sia uniforme per tutti, che non ci siano eccezioni, ma l'ECA sta lavorando proprio per questo, per garantire a tutti che l'applicazione sia veramente uguale per tutti. C'è il rischio in questo momento che si creino situazioni di disparità? Il rischio c'è, perché ci sono delle difformità, ci sono, come sempre quando vengono emesse delle norme nuove, delle aree così vuote che rendono quindi possibili scorciatoie. Ecco, che rendono possibili scorciatoie, elusioni e altro. Si sta lavorando proprio per evitare tutto questo. La verità è che mettere tutti d'accordo è difficile. L'avvocato Dupont è famoso per aver fatto cadere, a metà degli anni 90, le barriere per la libera circolazione dei calciatori in Europa. Adesso ha depositato presso la Commissione europea un ricorso che mira a cancellare l'articolo 57 delle norme del fair play finanziario, quello che obbliga al pareggio finanziario perché, secondo l'avvocato, limiterebbe la libertà di investimento. Ancora Paolillo. Questo ricorso sì, abbiamo visto i fondamenti di questo ricorso. Francamente lo sport, l'attività sportiva è un'attività atipica e quindi ci sono tutti gli elementi per ritenere che la normativa del financial fair play, così come è stata concepita, regga. Ma cadesse quell'articolo, è a rischio l'intera impalcatura del fair play? No, non è a rischio l'intera impalcatura, casomai ci sarà qualcosa da mettere a punto, ma non credo neanche. Io sono molto molto fiducioso che tutto rimanga così com'è. L'Unione Europea guarda e aspetta, pronta a intervenire al fianco dell'UEFA. Antonio Panzeri. Direi che se fossimo in presenza di un fatto che porta alla destrutturazione, diciamo così, di questo sistema del fair play, è indispensabile che la politica ripari a un possibile danno che può provocarsi. Quindi l'Unione Europea è pronta a mettersi al fianco della UEFA? Direi di sì, non tanto per operare delle ingerenze che non sarebbero comprese, ma quello per far rispettare le regole. Lorenzo Fontana. ci possono essere dei pericoli, però io ritengo che veramente la normativa in questo caso sia stata fatta per migliorare in generale il sistema calcistico. È evidente che con più regole ci sono, magari ci sono anche meno possibilità di operare, però ovviamente dal nostro punto di vista quello che si vuol fare è che si operi nella legalità e si operi con un'armonizzazione. Alle porte però bussano i nuovi ricchi, come il magnate russo che vuole rifare grande il Monaco. Ha appena strappato la promozione in Ligue 1, gli altri club francesi lo hanno accolto, ricordandogli che deve pagare le tasse come tutti e non con il regime agevolato del Principato. Sembra uno sport, ma dietro il pallone che rotola ci sono interessi da capogiro. Negli ultimi 5 anni, in mezzo alla crisi, il fatturato complessivo del calcio europeo è cresciuto del 24%, altro che recessione. A Dortmund e in Germania, in fondo, sono solo stati più bravi che altrove. Euro Reportage, in collaborazione con Euronet Plus.